correre troppo in fretta, mentre tu segui un aquilone che non si ferma neanche quando all'orizzonte non lo vedi più. C'è ancora voglia di volare in quei tuoi grandi occhi neri, ma intorno a te non c'è più niente che possa darti le tue ali ormai. E allora non pensare a me, di chi crede che prima o poi qualcosa cambierà. La vita è quella che hai di dentro, come un sorriso di un bambino quando ti tende le sue mani, sapendo che tu non lo tradirai. E spacca gli argini del fiume, parole della gente, perché la vita che hai di dentro è ormai più forte anche di te. Allora non pensare a niente, perché niente l'ha pensato già, e corri sempre verso il sole. Sempre verso il sole.